giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchessi. Luglio 2001, Genova. La città si sveglia sotto un cielo sgombro di nuvole e la giornata si preannuncia calda. Nel pomeriggio si riuniranno gli 8 capi di Stato dei paesi più industrializzati del mondo e la città è blindata. 20.000 poliziotti e carabinieri proteggono la zona rossa, un'isola delimitata da grate alte 5 metri, creata per garantire la sicurezza e il tranquillo svolgimento del vertice. Sono 9 le manifestazioni di protesta autorizzate che partono da altrettante piazze tematiche, ma noi oggi seguiremo solo una di queste, il corteo delle tute bianche. Proprio da quella visuale partiranno gli scontri che porteranno alla morte del giovane Carlo Giuliani. Vestiti di nero, accento straniero, canottiera, felpa, cappuccio. Si muovono in gruppi di 15 e di 20 persone. Fin dalla mattina, a partire dalle 11.30, i Black Bloc mettono a ferro e fuoco il centro della città. Indisturbati rovesciano auto e le incendiano, lanciano sassi contro le vetrine, distruggono banche, saccheggiano supermercati. Si concedono alle telecamere inscenando una danza di guerra e sventolando bandiere nere a rullo dei tamburi. Sono le 13.30 quando 10.000 tute bianche partono dallo stadio Carlini. La manifestazione è autorizzata fin quasi alla stazione Brignole, ma il corteo vuole entrare nella zona rossa. Alle 15 incontra le prime devastazioni dei Black Bloc all'altezza di via Tolemaide. Teniamolo a mente questo particolare, perché è proprio in questa strada che avverranno gli scontri più duri. Per la prima volta i carabinieri sbarrano la strada al corteo e lanciano i lacrimogeni. Il cerchio del corteo, la cosiddetta testuggine di protezione, all'inizio regge lutto, ma poi è costretta ad arretrare. Il corteo delle tute bianche è preceduto di alcuni metri da un gruppo di contatto col compito di favorire il dialogo tra i manifestanti e le forze dell'ordine, ma qualcosa non va come previsto. Sentiamo l'onorevole Paolo Cento, dei Verdi. Formato da parlamentari, amministratori locali, rappresentanti dei movimenti, nella giornata del 20 luglio, in particolare per noi che ci trovavamo nella manifestazione che partiva dallo stadio Carlini, non ha mai avuto alcun modo di dialogo e di confronto con le forze dell'ordine. Solo successivamente agli incidenti e alla morte di Carlo Giuliani ci siamo ritrovati sotto la questura, abbiamo avuto in quel caso un incontro con i vertici di polizia. Dopo la prima carica il corteo arretra, si riorganizza, si dirige nuovamente verso la zona rossa. Via Tolemaide ora è sgombra, ma dopo un centinaio di metri i manifestanti incontrano nuovamente i carabinieri e per la seconda volta scoppiano gli scontri. Il sospetto che alcuni violenti abbiano trovato protezione all'interno del corteo, lo dice l'onorevole Filippo Ascerto di Alleanza Nazionale, che ha assistito in quel momento ai disordini dai monitor della caserma dei carabinieri di Porte San Giuliano. La verità è un'altra, che questi violenti dopo le incursioni sono rientrati all'interno del corteo e sono stati lì omologati. E come si fa a individuare colpevoli o a frenare i violenti quando vengono protetti da un intero corteo? Chi dice che l'ordine pubblico poteva essere gestito in modo diverso, oggi analizzando a fondo le cose possiamo anche dire che si poteva organizzare qualcosa di diverso, come ad esempio l'antiguerriglia, perché chi fa guerriglia non può essere affrontato con i sistemi da ordine pubblico. Dopo la seconda carica il corteo perde la sua unità e i manifestanti si disperdono nelle vie laterali. Sono le 16.30. Adesso a quest'ora Carlo Giuliani si unisce al gruppo di dimostranti, iniziano le cariche isolate di pochi blindati dei carabinieri, ma la manovra risulta controproducente perché i mezzi si espongono alla reazione dei manifestanti. Un blindato viene abbandonato e diventa preda dei dimostranti che lo incendiano.